Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Pierpaolo Santorelli per la regia. L'appuntamento rimane confermato domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata. Ricordate le repliche sono mercoledì notte, nella notte tra mercoledì e giovedì per la precisione, dopo l'ultima edizione del notiziario. I testi, con qualche problema, ma tutto si supera presto o tardi, li trovate sul sito.